che ho viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mike, buongiorno, è morto? No, non ci posso credere. Speravo che succedesse in diretta. No, è impossibile. Questo qua deve essere uno sketch di Fiorello. Non ci posso credere. È impossibile che non sia morto in diretta in un orario particolare o che nessuno abbia idea. Così di punto bianco muore. È impossibile. È impossibile. Fa parte dei doveri istituzionali, ma anche dei piaceri, anche delle maniere di essere testimoni della contemporaneità che ci è dato di vivere. Già ve l'ho annunciato ieri, ho avuto varie occasioni di essere colto nel trascorrere del mio banalissimo quotidiano da uno degli eventi più straordinari di questi ultimi tempi, che è stata la morte di Mike Bongiorno. Oggi dedichiamo l'intera puntata al fenomeno Mike Bongiorno. Ben poco ci sarebbe da aggiungere alla mastodontica e pantagruelica esposizione che c'è stata già sui giornali di questo personaggio. Il titolo che ho dato alla mia riflessione sul profilo Facebook è «Ancora Mike questa mattina, virgola, anche se, puntini, puntini, puntini». Su quell'anche se io vorrei riflettere, chiamate 800240024. In genere si mette su un po' di olio, no? Mi pare, sulla pasta e fagioli? Sì, un po' di olio crudo. Che olio crudo? Aiuta l'intestino. Perché? Cosa aiuta? L'intestino. Aiuta l'intestino. Ma mi sembra che anche i fagioli aiutano l'intestino, non solo l'olio, eh? Ma l'olio sì. Tutti e due vanno bene insieme, ho capito. Lei le chiama amoroidi. Amoroidi, come si chiamano? Non lo so. Credo che si chiamino emorroidi. Scusate, è stato lui che ha tirato in ballo sta d'accordo, roba. Amoroidi sembra una cosa d'amore. D'amore. Tanto d'amore. Sarebbe bello. Bravo, Longo. Dopo 106 puntate non ha ancora imparato quali sono le palline, hai capito? E pensare che ci teneva tanto a queste palline, le ha sempre tenute lì nel suo cassetto, hai capito? Per punizione, questa sera in chiusura ti schiacceremo le palline, va bene? Ok. Cosa è l'EQ? Cosa avete capito voi? Va bene che qui a Milano l'EQ magari può far pensare chissà cosa. Ebbene, sappiate che l'EQ è molto importante per l'Europa unita. Con il dovuto rispetto, con l'osservanza di pietas, di ricordo, di memoria grata che si ha per un personaggio che comunque ha segnato la nostra emotività, la nostra esperienza umana, questa mattina vorrei proprio riflettere su questo anche se di Mike Bongiorno. Era prevedibile l'entusiasmo da parte di tutta la stampa, l'intelligenza, i pensatori italiani nel gettarsi su questo mito nel momento che terminava la sua avventura terrena, non terminava la sua esistenza come ogni personaggio televisivo. Mike Bongiorno, che è l'archetipo, il prototipo di ogni esistenza televisiva, non è così banalmente limitato da una circostanza spazio-temporale nel continuare a rimanere vivido come immagine e come presenza costante nella nostra giornata quotidiana. Mai è stato tanto presente, tanto vivo Mike Bongiorno come l'istante in cui è stato dato l'annuncio che egli fosse morto. Mike Bongiorno ha riempito in maniera costante tutti gli schermi italiani. Da ieri nel primo pomeriggio sono viste conduttrici in lacrime, e sono visti ex colleghi con le mani ben nascoste dall'inquadratura della telecamera in campo americano, perché sanno benissimo che nell'elenco dei sopravvissuti ben pochi nomi rimangono. Uno degli ascoltatori che mi scrive su Facebook dice: ho fatto un'altra crocetta nella lista del Brindisi. La lista del Brindisi è l'elenco di personaggi alla cui morte lui si scatena in un baccanale domestico, non so perché. Mike Bongiorno, la morte di Mike Bongiorno gli ha dato grande allegria, grande felicità, ma probabilmente non perché ci si possa rallegrare della morte di un essere umano, ma semplicemente perché uno dice: viva Dio, finalmente comincia a esserci un segno tangibile, un segno concreto, che il tempo è passato, che un'epoca finisce. Siamo rimasti miseramente congelati ancora a un modello televisivo che è poi un modello di vita, non essendoci più una sostanziale differenza tra vita reale e vita riflessa in televisione. Quindi man mano che i grandi costruttori di questo immaginario nel quale inconsapevolmente ci culliamo tutti e galleggiamo tutti e ci illudiamo tutti di avere un'esistenza concreta e reale, beh, significa che probabilmente ci potrebbe essere un momento di svolta, qualcosa cambi. Oggi tutti i giornali sono concordi nel dire: morto il padre della televisione italiana. Ma sarebbe forse più esatto dire: è morto il padre dell'Italia, è morto il rappresentante più limpido e più cristallino e più completo dell'italiano medio. Mike Bongiorno, nel suo essere carezzevole, nel suo essere soltanto irritante, cattivo e scostante con i concorrenti, quindi con le persone che aveva sotto la propria soggezione, il proprio dominio, di lui furono epiche le sgridate, la famosa concorrente che si nascose fra le zinne prosperose, il bigliettino con, poi vi faremo sentire anche magari il pezzo, con la risposta al telequiz, fu da lui redarguita a punto tale che la svenne per l'onta, per la vergogna di trovarsi in quel momento davanti al mondo, e sottolineato da lui il fatto che ella non era meritoria del premio che stava vincendo. E ancora ieri si è vista in qualche televisione giustificarsi: avevo la colite, avevo qualcosa che mi faceva male, soltanto per questo io feci quel gesto assolutamente, giustamente riprovevole. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie che ha interrotto il mio vaneggiare, che sarebbe durato all'infinito. È necessario, perché io, stando a casa con un'invalidità che mi dà fastidio camminare, queste cose qua, sono sempre a casa. Ma è permanente, costante o temporanea? No, è costante, però non posso farne a meno, perché io non mi voglio operare. Ah, nessuno fa meno delle proprie invalidità, la posso capire. No, sarebbe un legno del disco, che io non mi fido a farmi operare. Fa bene, magari dopo rimane paralizzato. Appunto, quindi rimanga, bravo, lì, e se no non ha anche nemmeno motivo di lamentarsi, altrimenti. No, non mi lamento, infatti. Beh, andiamo al punto. Ecco, io da ieri, il primo pomeriggio, mi vedo a pioppare queste notizie, con tutto il rispetto per la persona, e va bene. No, bisogna sempre rispettare. Lo rendono antipatico perché ce lo fanno cibare in tutte le salse: radio, televisione, giornale e tutto il resto. Beh, questo è anche normale, giusto? In effetti è un personaggio così centrale, così importante. Certo, l'ho riconosciuto. È normale per noi sessantenni, che lo vediamo dalla Edi Campagnoli alla Ruffini, alla Longari e tutto il resto. E abbiamo apprezzato e ne apprezziamo le qualità. Però tu giri un canale e non trovi nient'altro, comunque non trovi nient'altro, e quello è il problema. Però lei mi ha fatto riflettere una cosa molto interessante. Mi piacerebbe capire se questa mattina esiste all'ascolto, a quest'ora, a questa radio, qualcuno che abbia un'età inferiore ai 30 anni. Lo pregherei di chiamare all'800 24 0024, perché noi stiamo parlando di Mike Bongiorno come comune denominatore dell'Italia, ma come se l'Italia fosse fatta di persone che di età media di settantenni, sessantenni, chissà chi appartiene alle forze giovani, fresche, vive del paese. Qual è l'immagine, il ricordo che ha di Mike Bongiorno? Ieri stavo a cena con alcuni amici più o meno coetanei, c'era un oscillare di 10 anni di età, più o meno si andava dai 40 ai 50 anni, io come sempre sono il più vecchio di tutti, e ci dicevamo tutti: sì, va bene, l'idolo delle nostre mamme, l'idolo di noi che siamo nati in un arco di tempo tra gli anni 50 e gli anni 60, ma gli altri come lo ricordano, come lo vedono? Un signore che vendeva materassi e vendeva mortadelle, un signore che era la spalla di Fiorello, un signore che... Ci ricordano le mamme che una volta andavano al cinema, e il cinema, i film si fermavano per vedere i grandi telequiz di Mike Bongiorno, colui che ha inventato i programmi dei pacchi, i programmi della fortuna, i programmi dei quiz, colui che ha inventato quell'antica, vecchia, vetusta televisione che guarda la nonna paralizzata, che noi non vediamo l'ora che se ne vada a letto o che venga portata in un'altra stanza per vedere i telefilm che a noi piacciono tanto. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei. Coletti, buongiorno, mi sente? Come no, benissimo. Buongiorno. Ancora un po' ci sento. No, volevo intervenire un po' da detto ai lavori, perché lavoro in una radio privata svizzera, praticamente sul primo intervento che avete fatto, no, dell'ascoltatore che alla morte di Mike Bongiorno, così, posto il concetto, si rallegra, festeggia, no? Io volevo dire, ma non per sadismo, lui festeggia tutte le volte che muore un'icona sacra dell'immaginario comune, festeggia perché dice finalmente si desacralizza, i vecchi dei ammuffiti se ne vanno e verrà qualcosa di nuovo. C'è il rinnovamento, sì, no, dico io che secondo il mio punto di vista, se il rinnovamento si chiamano Teoman Mucari, Belen Rodriguez, tutta gente che in questo momento prenderà chiaramente il timone delle conduzioni televisive, c'è poco da rallegrarsi, c'è poco da far festa, insomma, perché è vero che finisce un'epoca dove c'era la cultura, il professionismo, cioè l'attenzione al particolare, vedi Mike Bongiorno e tanti altri, ma adesso tutto questo è completamente sparito. Quindi se è così, Mike Bongiorno tutta la vita e anche nell'eternità, penso, questo è il mio pensiero. Però si rende conto che noi stiamo parlando della televisione, della rappresentazione televisiva, sì, come sia la vita, come se fossero dei parametri applicabili all'esistenza. Dice, muore un esempio di artigianato e professionalità televisiva, oggi la televisione è fatta in maniera standard, ma questo potrebbe valere anche per le scarpe che una volta si facevano a mano, poi vale per le automobili che una volta erano molto più raffinate nei particolari. Qualunque oggetto passa in una industrializzazione della sua produzione, anche la televisione, che è basso intrattenimento, ha nulla a che fare. Umberto Eco rese celebre e fu il primo a sdoganare Mike Bongiorno come punto di riferimento anche del pensiero alto, tracciandone una fenomenologia, dicendo che in fondo lui rappresentava l'orgoglio della mediocrità. Ma questo orgoglio della mediocrità a distanza erano gli anni 60, sono passati parecchi decenni, oggi lo vedo celebrato dai più grandi editorialisti nei quotidiani italiani, sono tutti fieri e contenti di dire che appartengono alla stirpe di Mike Bongiorno. Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche cosa? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, niente, signorina? Guarda. No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda. Vuoi guardare, Sabrina, per favore? Vuoi guardare? Perché è successo qualche volta. Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me. Ecco, che cos'è che aveva lì? Erano dei miei appunti, comunque. Erano dei miei appunti. I suoi appunti? Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Oh, signori, cosa facciamo qua? Mi meraviglio di lei, come no, gli scolaretti a scuola. Ma cara signorina, ma lei... Li avevo qui anche sul tavolo. Ma lei li aveva qua. Ma cara signorina, ma come si permette lei, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni, dico 120 milioni, come gli scolaretti, che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi prepariamo. Signorina, ma io mi meraviglio di lei. No, signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo, per fortuna l'ho visto. Signori, che cosa facciamo? Io non lo so, per me deve essere squalificata la concorrente. Non è possibile. Questa era la mitica puntata di Telemike del 3 maggio 1990, quando Mauro Alivoli era impegnata nel nascondere nel lubertoso seno il bigliettino che la classificò e la condannò a vita nel girone degli infami, di coloro che non capirono il senso altissimo del quiz televisivo. Vedete Mike com'è arrabbiato, con quale insistenza la inchioda alla sua colpa. È una persona che è colpevole di reato di eresia, ha profanato, cioè è entrata nel circolo sacro della televisione con intento profanatorio, dissacratorio, ha rotto le regole e merita naturalmente la più terribile delle condanne, che è quella alla scomunica. La scomunica nella sua accezione primaria era la condanna al fatto che nessuno potesse comunicare con la persona colpita dall'anatema. Lo scomunicato, famosa la scomunica, ve l'ho letta più volte, che fu pronunciata contro Spinoza, dice nessuno parli con noi, nessuno gli rivolga parola, nessuno risponde alle sue parole. Colui che aveva in mano il medium, il grande mediatore dell'esistenza umana, la televisione, condanna la scomunica a questa concorrente. Ella non potrà più comunicare, ella esce dal circo della gloria dell'esistenza televisiva. La sua residua gloria sarà appunto quella di rappresentare il personaggio della scomunicata. Ieri ancora qualcuno la intervistava per un fatto avvenuto appunto nel 1990, per questo bigliettino che rappresenta una sorta di passo falso, di tentativo di uscita dalla regola televisiva. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Vedo un po' di latitanza e reticenza da parte delle signore, e lo dico sempre con grande rammarico, perché le donne non chiamano, perché stanno zitte, hanno paura di essere colpite in quanto sacerdotesse del culto di Mike. Lo sta chiedendo a me? No, lo sto chiedendo a me stesso, lei non è una signora, lei esprima il suo parere virilmente. No, io esprimo il mio parere è questo. Credo che ci sia una grande ipocrisia in tutto questo voler mettere Mike Bongiorno fra i padri della lingua italiana o anche della televisione o meno. Ahimè, però è vero, purtroppo. Ricorda, se lei si ricorda, 4-5 anni fa qualcuno avanzò l'ipotesi che Mike Bongiorno potesse essere nominato senatore a vita. Sì, oggi se lo rinfacciano sui giornali. Siete voi che non avete voluto farlo senatore, non fate n'icona. Non è solo... Credo che in questo momento ci sia, come sempre succede in Italia, un tipo di rivalutazione, anche di stabilizzazione del Mike Bongiorno che nell'ultimo anno si è allontanato dal Berlusconi. Sì, oddio, adesso sui giornali qualcosa trapela. Già oggi è sotto traccia perché ancora bisogna fare i funerali. Diciamo che Paolo Villaggio, nella sua lettura che fa sull'Unità, Paolo Villaggio è l'unico a fare un pezzo cattivo, lo dice esattamente Mike. Non l'ho letto. Lui dice: con me sei stato un cane, mi hai trattato malissimo. Io cambiavo il linguaggio televisivo, fui il primo a trattare male il pubblico, a creare un elemento di rottura in questa vasellinica maniera di trattare i personaggi in televisione e i partecipanti in televisione, e tu mi hai umiliato, un giorno mi hai mortificato, mi hai fatto scendere dal palco, mi hai fatto ritornare in platea. Dice, io non partecipo ai funerali che ci saranno, sarai fortunatissimo, ai funerali di Stato, sarai nel Duomo di Milano e tutto. Dice, te la sei sempre cavata bene nella vita, te la caverai anche in questo. È l'unico che mette un po' di cattiveria. Gli altri sono tutti concordi nel dire che è giustamente stato un grande personaggio. Però quello che dice lei è vero. Qualcuno dice, quando volevamo farlo senatore a vita, voi non volevate. Non ne facciamo un'icona, o a destra o a sinistra. Adesso la mia poca perspicacia nel destreggiarmi tra gli orientamenti politici non mi ha fatto perdere il senso. Poi mi sembra di capire che se lo tireranno per la giacchetta, dire mio e tuo. Mi sembra di ricordare, non vorrei dire una castroneria, che il problema reale perché fosse fatto senatore a vita, ma anche Bongiorno, è che non aveva la cittadinanza italiana, quindi questo non era possibile. Mi dicono che stiamo terminando, ecco c'è ancora un minuto, quindi un minuto me la posso ancora dilungare con Luigi. Luigi, buongiorno. Oh, buongiorno. Volevo entrare nella discussione, rimanendo un po' nel solco psicanalitico della trasmissione. No? Ognuno si scelga i suoi solchi e se li frequenti a piacere, finché il solco lo accoglie. È un po' il tentativo parlare un giorno di sepoltura di solchi è un po' sinistro. Un tentativo di elaborare quasi un lutto, no? Ma un lutto un po' particolare, perché in questo caso non è morto un semplice uomo, ma una persona resa diva, divus, un po' divinizzata, mitizzata, alla fine di un mito, no? Per cui tutti quanti... No, il mito oggi... con la morte non finisce, anzi si alimenta. Sì, però ci saranno dei funerali, bisognerà anche avere il contatto con la fisicità umana, cioè con la corporeità, diciamo, di Mike. Ci saranno folle però... che vorranno... essere imbevuti però, della grazia di questo personaggio, come sempre succede. Io volevo però un ricordo, lei è sempre affezionato alle immagini dei baby boomer nei quali rientro, compirò i mitici 50 anni, sempre per rimanere nel mito, e ho ricordo di un Mike che si chiamava Mike, cioè un nome americano, e questo è molto importante, è stato, perché Mike era l'America trapiantata in Italia nel dopoguerra. Era quindi la televisione, era quella modernità che veniva dall'America, era soprattutto la pubblicità, televisiva, era soprattutto la televisione commerciale. Però mio padre ogni giovedì sera criticava, come si critica il consumismo e poi si consuma, no? Come si critica l'inquinamento e poi si inquina. Mio padre tutti i giovedì sera, criticando Mike per quello che esprimeva dell'America, che distruggeva quello che era il nostro mondo contadino attraverso la televisione, che attraverso questi imbonitori, queste falsità della televisione, criticava la falsità di questa televisione, la montatura, diciamo, che si vedeva dietro ogni trasmissione. Intanto però, come tutti quelli che fanno e dicono, io non la guardo mai, non ce l'ho mai, la guardava e ne erano contaminati e imbevuti. Io lo perdono solo adesso, dopo 19 anni, e la donna coi foglietti mi presenta un ascoltatore su Facebook il pezzo sul Corriere della Sera, lo perdono, dopo 19 anni il perdono, hanno ottenuto, quindi se ne può andare la sua anima tranquilla senza il peso sulla coscienza di questa donna ferita che nascose il foglietto. Melog 2.0. Mi dispiace, per colpa di un uccello lei purtroppo cade. Purtroppo è così. Eccoli qua, come vedete, due personaggi molto simpatici. Abbiamo con noi Vilma Goic e Paolo Bolis. No! Bonolis, sì. Scusami, ma è stata una paperina che no, ho fatto. No, ma non ti preoccupare, guarda, lui mi chiama sempre Vilma De Angelis. Ecco, lei è quella. Noi vogliamo vedere le gambe di questa Vilma, che dice che ha le gambe molto belle. Dice no, sono molto belle come quelle della normali. Della Cinquetti. Hai capito? Cioè la Cinquetti è mezzo metro più alta di me. Ma cosa vuol dire? Si può avere le gambe belle anche se uno è un tappo. Ecco, però grazie caro, lei è troppo buona. Quello che tutti ancora si domandano, se c'era o ci faceva, ma pare che fosse, tutti hanno detto, confermato, ieri l'ha confermato anche Costanzo in una delle sue infinite dichiarazioni televisive, che il fingere, fare gaffe, fare il finto tonto, sbagliarsi, arrovellarsi sul linguaggio, storpiare i nomi, contribuiva comunque a creare il successo, a creare il mito, lui ne era perfettamente consapevole, quindi su questo giocava. Non sono perfettamente sicuro, nessuno darà mai la certezza che sia realmente così, ma il fatto che sia argomento di discussione rafforza la forza del personaggio. Marta, buongiorno. Buongiorno signora Gianluca Nicoletti. Ecco, io, buongiorno signora. Buongiorno. Ecco, io chiamo perché volevo lasciare questa riflessione. Allora, che per me Mike non rappresenta alcun personaggio in quanto nel mio immaginario non esiste, perché i miei genitori non mi facevano mai vedere la televisione quando ero piccola e in particolare le trasmissioni di Canale 5, comunque quelle della Fininvest. Beh, lei sarà molto giovane, signora, per questo. 27 anni. Ah, oh, finalmente. Ecco. Allora lei ha risposto alla mia domanda, perfetto, al mio appello. Dunque lei è una 27enne, quindi sotto i 30 anni, che è la soglia in cui uno comincia a guardarsi attorno con aria un po' perplessa, poi comincia a capire in che mondo si trova. Per lei Mike Buongiorno cosa rappresenta? Esiste? Ecco, per me esiste perché l'ho visto su YouTube, gli spezzoni dove delle persone hanno lasciato Mike Buongiorno vedere che il modo in cui tratta le sue vallette oppure i suoi personaggi, quindi mi è rimasto in mente per il suo rapporto dove sembrava che prendesse proprio di mira i suoi... Lo sa perché è molto interessante quello che dice lei? Perché lei ha già una rilettura, quindi una riedizione, una narrazione storica vista, presa da un punto di vista che non è quello tradizionale, quello su cui oggi si dilungano e stromboneggiano tutti i grandi critici televisivi, gli analisti della televisione, che ancora parlano di televisione come se fosse qualcosa di vivo e condiviso dall'intera umanità. Ma per una fetta di umanità che ha avuto il privilegio di avere un'età più giovane della nostra, in realtà quella televisione non esiste più, è già qualcosa di morto, di sepolto. Ne hanno l'icona riflessa, ne hanno il ricordo che è lo spezzettamento, è come andare in un museo e vedere degli avanzi in un'antica civiltà, vedere dei piccoli coccetti con delle scritte, forse questa frase vuol dire quello che ne sappiamo di quello che è stato. Prendiamo quel pezzetto, su questo costruiamo una nostra immagine. Pensare, ieri abbiamo parlato con la professoressa Cantarella sulla sessualità dei romani soltanto per dei graffiti visti a Pompei, ma che ne sappiamo di tutto il resto? Per noi i romani avevano quel tipo di attitudine nei confronti del sesso perché a Pompei ci sono un po' di piselli disegnati qua e là, e pensiamo sia quello, ma è come giudicare la civiltà del Novecento con le scritte che fanno i ragazzini nei bagni dei loro licei. Ecco, lei vede Mike Buongiorno con la stessa ottica, lo vede con la selezione delle facezze, delle cattiverie, dell'infamità che è tipica della televisione raccontata attraverso internet. Chi mette i pezzi di Mike su YouTube non mette quei polpettoni lunghissimi, interminabili dei suoi programmi, dei suoi quiz tutti uguali, delle sue battute tutte identiche, dei suoi capelli cotonati immarcescibili negli ultimi 50 anni. Mette soltanto quelle sei cose che noi ricordiamo oggi. Sabina Ciuffini che stira sulla gonna con i fili, la concorrente che mette il bigliettino e il maltrattamento alla sua valletta che non vuole mettere la pelliccia, è così? Esatto, sì, è così, sì. E, ecco, io lo ricordo così, molto, se vogliamo, simpaticamente cinico. No, questo è una grande speranza, visto che oggi tutti vogliono rendere universale quello che è la piccola e miserrima materia televisiva, è la speranza che in realtà, ecco, la storia non sia scritta con lettere di fuoco e caratteri indelebili, finalmente la storia si riscrive, si sovrascrive, quindi abbiamo la speranza di quello che noi oggi consideriamo certezza, domani non rimarrà nemmeno il più pallido ricordo, o sarà tutta un'altra cosa. Roberta, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, niente, io volevo solo dare così una mia, niente, un mio parere in pratica. Secondo me, ecco, perché dice niente? Perché associa il suo parere alla parola niente? Perché sono semplici parole, come diciamo. Ma scusi, qua stiamo facendo oggi l'apologia di una persona che passa la storia per avere reso epica la banalità. E lei dice niente per le sue parole? E vabbè, diciamo, ognuno si pone poi nel modo che pensa più idoneo, diciamo. Senta, niente, io volevo dire soprattutto questo, che diciamo, per me è stato, diciamo, soprattutto un grande, diciamo, vedendo gli altri personaggi televisivi, un grande lavoratore, insomma, uno stacanovista, lo definirei. Ma soprattutto una persona. Beh, anche in miniera, anche nelle fabbriche, anche sì, ce ne stanno tanti lavoratori. Che diciamo è stata una persona che ha cercato sempre la perfezione e secondo me l'ha anche trovata, diciamo, rispetto ad altri presentatori sicuramente è stato veramente unico, insomma, diciamo, a parere di Mike possiamo avere un Baudo, un Costanzo, ecco, poi io non ne avrei altri. Sì, non li nomini ancora perché stanno lì a scarnificarsi gli attributi, perché è un momentaccio questo, immagino. Si sente reduci, ma come mi posso sentire io già reduce rispetto alla mia generazione? Certo, grazie, certo. Raffaele. Buongiorno. Lei ha lavorato con Mike Buongiorno? Io ho lavorato con Mike Buongiorno. Quindi ci dia una testimonianza palpitante e carnale. Ho 21 anni e diciamo che prima di conoscerlo di persona avevo anch'io quell'immagine che aveva l'ascoltatrice prima un po' da YouTube, dai racconti degli zii, dai genitori. Poi l'ho conosciuto e la cosa che mi ha colpito più di lui è questa devozione che aveva per il suo pubblico. Lui entrava prima della trasmissione, 5 minuti prima, andava in mezzo al pubblico e iniziava a chiacchierare con loro e a raccontargli cosa aveva fatto durante il giorno. Proprio per farsi sentire vicino, e questa cosa mi ha stupito tantissimo, al contrario magari di molti altri della televisione che snobbano un po' la folla, il pubblico. Questo diciamo che fa parte delle tecniche del mestiere, soprattutto dell'antico mestierante. Oggi la divetta televisiva, composta all'80% di polimero artificiale, ama rappresentarsi nella sua intangibilità. Appena ha un minimo di consistenza sul mercato, si circonda di guardie del corpo, si circonda di cortine, lasciando trapelare soltanto quei terminali della curiosità che le daranno celebrità, coloro che la fotografano, la mettono sui giornali. Da antico mestierante lui sa che il rapporto fisico, viscerale, epidermico con il pubblico era fondamentale. Quindi è vero, come fanno i grandi della televisione, ancora fanno, molti conduttori lo fanno ancora, prima dello spettacolo vanno e parlano con il pubblico. Esiste nei teatri televisivi, negli studi televisivi, una figura che assomiglia un po' a l'asino che si usa nelle stalle dove si accoppiano i cavalli per scaldare le cavalle prima che arrivi lo stallone. C'è un signore che di solito arriva, dice siete caldi, battete le mani, che insegna alle persone come comportarsi, ma è qualcosa di artificiale. Ancora era per una sorta di rapporto profondo e naturale Mike col proprio pubblico, e quindi questa parcella di sua esperienza ci arricchisce il personaggio. Enrico. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, l'ascolto bene. Ah, ok, grazie. Io chiamavo non tanto per seguire magari discorsi su pezzi di YouTube oppure su, diciamo, ricordi, o cioè, chiedo scusa, più su ricordi era quello l'intervento che farò io. Per me Mike Buongiorno è rimasto legato a quando io da piccolo guardavo Telemike. Io ho 30 anni e guardavo questa trasmissione perché ero molto appassionato, cioè coglievo e mi appassionava molto la sfida di queste persone. che erano sostanzialmente persone molto intelligenti, sarà una, anche una cultura nozionistica, comunque era una sfida contro loro stessi e contro gli autori che vedevo come delle eminenze grigie che cercavano di mettere alla prova, insomma, le menti e le conoscenze di queste persone. Noi veniamo da un periodo lunghissimo di non esperienza bellica, la nostra generazione degli anni 50 non sa cosa sia la guerra, quindi i motivi di cimento, i motivi di ardimento sono tutti riposti nel tentativo di superare il fronte che divide il mondo dell'inconsistenza umana, il mondo in cui viviamo, in cui è difficile procurarsi visibilità, e il meraviglioso mondo della televisione, che è il vero terreno di conquista. Mi viene da pensare, chiudiamo poi questa seconda parte, che un anno fa circa ci fu una vivace azione legale da parte dell'editore televisivo Mediaset nei confronti di YouTube perché gli portava via pubblico. Oggi bisognerebbe fare una riflessione di quanto in realtà questa maniera surrettizia, questa seconda spremitura rispetto alla grande massa della produzione televisiva, in realtà mantenga vive alcune parcelle di quella televisione morente, già morta o zombizzata completamente, nelle generazioni che altrimenti non avrebbero altro modo di potersi ricordare che è mai esistito qualcosa che si chiamasse televisione. Melog 2.0. Questa è la pelliccia, sarebbe una cosa fantastica, eh? E difatti vince la pelliccia. Questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene. Proviamo questa bella pelliccia, eh? No, non posso portare la pelliccia. Non può portare la pelliccia? Sono obiettore. Ah, obiettore di sì. Coscienza. Ma penso che la lascerò qua. La lascia qui? Sì. E noi siamo ben contenti, la teniamo qua. Grazie! La teniamo qua che e... brava! Faremo... Complimenti! Faremo un po' di beneficenze, noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani, perché allora, signore, non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto. Quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così. Pensate il paradosso, faremo un po' di beneficenza. Vai dalla povera barbona appoggiata sugli scalini di una chiesa nel suo putridume e gli regali la pelliccia, pelliccia poi che oggi non avrebbe nessun senso di esistenza, che ha vinto la concorrente obiettrice di coscienza al telequiz. Anche un altro momento in cui è facile definire quanto in realtà è il vero successo di Mike, la vera ragione dell'esistenza è il suo essere stato tutore della regola, grande guardiano della sacra regola che teneva in piedi la televisione, tutta la televisione, non soltanto la televisione commerciale. La televisione in fondo è un grande meccanismo di produzione dell'immaginario che cambia profitto con immaginario, e l'immaginario, visto che ha una recettività così disposta a prendere qualunque cosa gli si metta dentro, si può fare anche di una televisione costruita sul culto della merce, sulla spettacolarizzazione della vendita. In questo fu un grande maestro. Ma questo episodio conferma quello che noi ci stiamo dicendo. Penso che le persone sotto i 20 anni conoscano Mike perché questo è uno degli episodi più cliccati su YouTube, la famosa disputa con Antonella Elia. Antonella Elia, ex ragazza e non è la Rai, ex rappresentante di una sua castità proclamata, che per anni andò al Costanzo Show dicendo che era vergine, poi andò a raccontare la sua gloriosa deflorazione, era diventata valletta di Mike Buongiorno a un certo punto, e naturalmente per essere in linea con un pensiero antagonista e politicamente corretto disse brava la concorrente, che vincendo la pelliccia poi disse che non la voleva, anche lei in cattiva fede, perché non si va a fare un telequiz in cui lo sponsor è un pellicciaio e ti dà pelliccia e puoi dire che non vuole la pelliccia. Quindi fa parte dell'irreale televisivo. Antonella Elia osò dire questa frase contro la regola e naturalmente fu subito messa alla gogna, fu subito impiccata, inchiodata dal grande guardiano della regola. Figurati, adesso si rifà perché non accettano più subito. Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiatevi, e così imparerà, va bene? Arrangiatevi. Vada in onda e voglio vedere che cosa succede, ok? Si può essere più stro... Si può essere più stro... Io una così la caccerei sui due piedi. Ma io me ne vado anche subito. E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare. Ma io me ne vado anche subito. Vai. E vado. Vai, okay. Se vuoi andare vai, e così ti faranno caso. Uso le pellicce, sì, perché brava. Sono contro. Vi rendete conto, signori, che sta Questa era la grandezza di Mike, anche la nostra grandezza, bisogna avere consapevolezza. Siamo tutti pronti ad essere ciecamente fedeli a una regola scritta nell'assoluto, di fronte alla quale non osiamo nemmeno prendere una posizione, che è quella che appunto lo sponsor è il dio della trasmissione televisiva, e pronti a infierire sulla povera valletta dipendente, può essere presa a calci nel sedere perché esprime una sua opinione, anche se paraculesca, in pessima fede, non condivisa, avrà avuto la casa tappezzata di pellicce di feto di ermellino probabilmente, ma in quel momento lei voleva dimostrare che era contro, perché era bello essere contro. Di fronte a Mike, essere contro, devo dire, che è veramente facilissimo. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Modena e volevo dire la mia su Mike Buongiorno. Io ritengo che, per quanto mi riguarda, non sia stato un mito come si vorrebbe far credere in questo momento. Io, se mi chiedo che cosa mi ha insegnato Mike Buongiorno, non riesco a dare risposta. Nel senso, a che decennio appartiene lei, signor? Io ho 40 anni, quasi 39, per cui insomma l'ho vissuto nel pieno. Io non vedo né un discorso di insegnamento morale, non lo vedo soltanto un portatore di aneddoti, chiamiamoli freddi, nel senso che sono comunque privi di essenza reale, insomma. Io non vedo un insegnamento per i giovani da parte di Mike Buongiorno. E, tra l'altro, non so, l'ho sempre visto come una persona che guardandola da vicino, dalla quale trapelava, diciamo, una certa ignoranza. Vabbè, lui della sua ignoranza ha fatto un suggello, sì, di gloria. Sì, è stato, diciamo, fortunato, nel senso che è riuscito a entrare nel momento in cui la televisione è nata, in un percorso televisivo, insomma, che ha usato nella maniera migliore. Vede, lui, se vuole parlare di fortuna, è una persona che sicuramente ha molto lavorato e si è molto impegnato, è che lui era americano, l'ho detto l'ascoltatore in prima parte, lui rappresentava ciò che era il fulgore più raggiungibile per l'italiano che usciva da una guerra. Da una guerra che sapeva che comunque il mito del nostro risorgere, del nostro benessere, era dato da quegli aiuti che venivano dall'America e quel modello che veniva dall'America. Lui veniva fresco fresco dall'America, lui già conosceva la televisione, le sue malizie, le sue strutture, e quindi era l'uomo giusto nel momento giusto. Questa è stata probabilmente la chiave risolutiva della sua vita. No, questo è quello che penso, insomma, quando dico che comunque si è trovato nel momento giusto, nel posto giusto. E poi un'altra cosa particolare è che era anche un personaggio, secondo me, antipatico e fastidioso, per questa sua esibizione della sua vita privata, della sua fortuna costruita, diciamo, alle spalle di alcune persone che sognavano il sogno che lui proponeva e che era comunque un sogno errato. Però questo, scusi, non è detestabile. Chi costruisce sogni per gli altri fa di questo ragione di professione. Io non ho moralismo a questo punto di vista. È un lavoro come un altro. Io stesso, guardi, gran parte della vita è stata improntata sul chiacchierare dicendo facezze alla radio. Probabilmente qualcuno pensa che io dica anche cose serie, cose intelligenti, mi ascolta, mi scrive. Non c'è nulla di male, detestabile. L'importante è ammettere con candore che si sta semplicemente confezionando il nulla, ma anche questo, certo, è un lavoro. Grazie. Andrea, stiamo proprio per chiudere. Andrea. Ciao, buongiorno. Velocemente, che siamo in chiusura. Per la trasmissione. No, sì. Io volevo dire, ecco, che Mike Buongiorno è stato a lungo l'antesignano del forte coi deboli e debole con i forti. No? Sì, ma è da quando Caino ha dato una pietrata in testa a Abele, esiste questo. Mentre Caino viene portato avanti con un esempio negativo, Mike Buongiorno invece viene considerato quasi un mito e ha fatto del nulla il suo... Eh sì, perché affranca tutti noi che siamo così, anche noi siamo ossequienti con chi ci sta sopra e siamo terribili e crudeli con chi ci sta sotto. Appaga Andrea, le nostre coscienze. C'è rimasto ancora qualcuno a parlare? Ecco, Andrea. Andrea Lui, lei è finito, niente, abbiamo finito, oh, che bello, siamo arrivati alla fine, lo dico con grande sollievo perché spero di non parlare più di Mike Bongiorno se non ricordare episodi collaterali che ci diano delle profonde illuminazioni su fessure nascoste della nostra realtà che ancora non abbiamo scrutato fino a fondo, se no altrimenti quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni che hanno mirabilmente contribuito questa mattina a creare dal nulla qualcosa che probabilmente lascia il tempo che trova. A domani. Permettetemi in chiusura di dire il mio famoso motto: allegria! Ciao a tutti! Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.